amici cari, io vengo dal Cile e il Paranà. Addossi sono il mambo con sto strumento a ca. È il bel trick ballacche che a Napoli libero. Lo suono anche vacche o giucce donnico. Lo suono Gil Milord ballando con la miss. Lo suonano anche i sordi. Va bene, bravo miss. Col trick ballacche viva la faccia, viva la faccia dell'allegria. Io lo suono la faccia tua. Io lo suono la faccia tua. Col trick ballacche trulla l'allera. C'è spassamo mattina e sera. Piglio un mondo così com'è. Aumenta ne fit, aumenta ne tasse. Se a politica è poco pulita, se l'amore è una corda stonata, ci facciamo una bella suonata e la vita ci avvimmo a godè. Dal Cile son tornato a Napoli laggiù. Mia moglie ho ritrovato con 5 figli in più. Io stavo nella sierra, sto fatto come andò? Lo sai, ci fu la guerra e a casa si scassò. Ho fatto 2 guaglioni, poi dopo ho fatto il tris. Hai fatto molto male. Va bene, bravo miss. Col trick e ballacche viva la faccia, viva la faccia dell'allegria. Io lo suono la faccia tua. Io lo suono la faccia tua. Col trick e ballacche trulla l'allera. C'è spassamo mattina e sera. Piglio un così com'è. Aumenta nei fit, aumenta nei tasse. Se a politica è poco pulita, se l'amore è una corda stonata, se facciamo una bella suonata e la vita ci avvimmo a godè. Io lo suono la faccia tua. Io lo suono la faccia tua. Figlio mondo così com'è. Aumenta nei fit, aumenta nei tasse. Se a politica è poco pulita, se l'amore è una corda stonata, ci facciamo una bella suonata. E la vita, e la vita, e la vita, e la vita ci avvimmo a godere.